Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo ritornati noi di 451 intersezioni. Un saluto e una buona serata da Elisio Scarpa che condurrà la puntata di stasera. Mi scuso ovviamente per coloro che ci seguono assiduamente per la mancanza di due puntate consecutive, purtroppo capita in questo periodo, non vado a descrivervi in particolare che cosa è successo, ma insomma può capitare, ma mi scuso perché due puntate consecutive saltate non è una bella cosa, insomma. Comunque siamo ritornati a 451 intersezioni nello spazio comune del giovedì notte, da mezzanotte all'una e mezza circa, e vi ricordo sempre il nostro blog no blog, il nostro progetto collettivo contenitore 451, che è sempre diramato tra 451 frammenti sonori, che va in onda sempre il mercoledì notte su Radio Città Fujiko dalle 23 all'una circa di notte, condotto dall'amico e compagno Max Macchia, che ovviamente saluto da queste frequenze. Poi ovviamente 451 intersezioni sempre su queste frequenze di Radio Città Fujiko il giovedì, il giorno dopo, dalla mezzanotte all'una e mezza circa. E ricordando anche le due splendide puntate dedicate al grande Prince, scomparso purtroppo da poco tempo sulla scena musicale e non solo mondiale, un grande artista, un grande musicista, un grande sperimentatore, con il suo pop geniale, il suo funky assolutamente imprevedibile, un grande autore, un grande musicista, che è stato omaggiato con due splendide trasmissioni da parte di Max Macchia nel nostro spazio 451 frammenti sonori. Quest'anno è un anno un po', diciamo, particolare. Il 2016 ha visto andare via parecchi musicisti anche abbastanza importanti sulla scena della musica sperimentale d'avanguardia, ma anche nella scena più squisitamente pop in generale. Dunque un anno abbastanza strano. Oltretutto stasera noi faremo un altro omaggio, in questo caso tributo a un altro grande musicista scomparso proprio il 9 aprile scorso, sempre 2016, tributo al grande Tony Conrad, musicista che ha fatto parte del progetto assolutamente innovativo e sperimentale, dirompente, della Monte Young, ma non solo, perché è stato anche parte attiva del progetto dei Dream Syndicate negli anni 60, e un musicista che insomma può essere considerato ed è considerato anche da molti uno dei pionieri anche tra i maggiori rappresentanti del minimalismo, anche se poi è stato un musicista a tutto tondo, un artista che ha sperimentato varie strade, anche regista, autore di filmati, di prodotti, diciamo anche video di arte a 360 gradi, oltre all'aspetto musicale, un artista assolutamente poliedrico e assolutamente inscatolabile, possiamo usare questo termine un po' strano. Tony Conrad, che dunque omaggeremo, sembra un po' che stiamo facendo le onoranze funebri quest'anno tra 451 intersezioni e 451 frammenti sonori, ma non possiamo mancare a omaggiare autori musicisti così importanti. Oltretutto oggi lo voglio anche dire, anche se poi mi differenzio e mi sono differenziato per tante cose rispetto a tante battaglie portate avanti da un altro personaggio che invece è scomparso proprio oggi della scena politica italiana, ma anche molte battaglie invece condivise, soprattutto quelle legate agli anni 70. E parlo di Marco Pannella, che oggi è morto e dunque ha lasciato un personaggio assolutamente paradossale, anche alle volte dirompente e assurdista nelle sue comparsate, soprattutto all'interno dei media ufficiali e non ufficiali. Fino all'ultimo ha delirato a tutto tondo, se n'è andato anche lui, un altro pezzo, diciamo, di storia del Novecento, anche della storia politica italiana, se n'è andato. Come dicevo prima, molte battaglie importanti sul piano delle lotte civili, che poi in realtà molte volte gli stessi radicali si sono voluti un po' accaparrarsi in toto, ma in realtà erano frutto anche di battaglie di movimento che esulavano anche dall'ambito strettamente radicale, ma erano molto più vicine alle lotte del movimento operaio, ma anche rivoluzionario e extraparlamentare degli anni 60-70 in Italia. Comunque, in ogni caso, alcune battaglie sono state indubbiamente condivise. Poi ce ne sono molte altre più legate all'idea liberale, liberista, che sta comunque sottesa al progetto del Partito Radicale, anche se molti non lo sanno e pensano che sia un partito, comunque una formazione di sinistra o legata comunque a un'area di sinistra generica. Pannella in realtà e i radicali si sono mossi su vari settori, ma rimangono liberali e liberisti, dunque molto distanti dall'idea che attraversa il nostro progetto musicale, ma che poi sottende un piano politico come quello di 451. Bene, dopo queste premesse entriamo subito, diciamo, dentro l'universo sonoro di Tony Conrad, che è giusto anche ricordare alcune annotazioni di questo grande musicista statunitense, nato a Concord il 7 marzo 1940, appunto, è morto 9 aprile 2016, ed è stato sicuramente prima di tutto un grande violinista. Il suo strumento principale è stato il violino, ma anche compositore, appunto regista e produttore anche di video e film anche sperimentali. La cosa importante che abbiamo detto anche in introduzione, che è stato parte fondante del progetto Dream Syndicate, ma anche soprattutto la Monte Young, che è un progetto musicale fondamentale nell'ambito della musica minimalista, che ha attraversato spesso comunque le frequenze di 451 frammenti sonori, ma anche di 451 intersezioni. Indubbiamente la cosa anche che è giusto ricordare, perché è particolare, che lo stesso Tony Conrad si laureò nel 1962 alla Harvard University, dove studiò matematica e musica sperimentale, e proprio poco tempo dopo la sua laurea entrò in contatto con la Monte Young e con Marianne Zazila e soprattutto con molti artisti dell'avanguardia newyorkese degli anni 60. Da lì iniziò la sua collaborazione insieme alla Monte Young, appunto anche portando avanti dei progetti squisitamente anche di composizione, di sviluppi e di sperimentazioni individuali e personali. Oltretutto, nel corso degli anni noi troveremo anche un'altra collaborazione molto importante nel 1973 con i Faust, gruppo storico del krautrock, e dunque si sposta su un piano anche differente rispetto alla sua formazione musicale lo stesso Tony Conrad. Oltretutto Tony Conrad ha avuto anche un'anomala produzione musicale, nel senso che molte produzioni si sono poi estrinsecate, sono uscite, diciamo, alla luce molto tempo dopo, e una delle prime opere che compose lo stesso Tony Conrad è datata 1964, proprio un paio d'anni dopo la sua laurea, a 24 anni, dunque molto giovane. Composizione assolutamente minimalista, dronica, ipnotica, intitolata Four Violins, che poi uscì successivamente in una produzione di raccolta di materiali, appunto, delle prime composizioni dello stesso Tony Conrad. In questo senso c'è una sorta anche di disordine, di difficoltà nel ricostruire storicamente il piano di produzione musicale di Tony Conrad, anche perché spesso le sue performance, le sue sperimentazioni erano talmente aperte che non si fermava molto all'idea di produrre o di realizzare un vinile o un disco o qualcosa del genere, ma spesso componeva, poi si spostava, performance, collaborazioni con altri artisti, si metteva appunto a lavorare anche come filmmaker e come regista, e si spostava insomma anche su terreni differenti rispetto a quelli squisitamente audio e musicali. Ma per fare un percorso di memoria, dunque di omaggio, di tributo a Tony Conrad anche dal punto di vista storico, partiamo proprio con la prima opera, Four Violins, 1964. In realtà la composizione del brano è molto molto lungo, noi ascolteremo un estratto seppur corposo, e dunque partiremo dal 1964 e faremo in questa prima puntata dedicata alle produzioni e alle composizioni composizioni del grande compositore Tony Conrad, un percorso che andrà dal 1964 al 1974, dunque il primo decennio, diciamo, di Tony Conrad. Poi ci saranno altre produzioni che in un'altra puntata successivamente nel corso di questa stagione cercheremo di realizzare per completare un po' la storia di questo compositore. Partiamo dunque con Four Violins, Tony Conrad, e dunque omaggio a questo grande compositore scomparso. Un buon ascolto chiaramente da 451 Intersezioni, Tony Conrad. rientriamo in diretta, anche perché, come vi dicevo, la performance durerebbe ancora circa 20 minuti, per cui insomma mi sembra un po' eccessivo, anche perché prenderebbe quasi la metà della trasmissione. Dunque, per ascoltare anche altre composizioni del grande Tony Corrad dobbiamo un po' limitare, diciamo, la durata temporale di queste composizioni, che sono tendenzialmente tutte piuttosto lunghe, e quasi tutti i lavori che ascolteremo stasera di Tony Corrad dal 1964 al 74 tendono appunto ad essere delle composizioni piuttosto lunghe in termini di minutaggio. Abbiamo ascoltato questo drone di quattro violini che vengono appunto assemblati da Tony Corrad per creare questo incastro tra melodie dissonanti e suoni piuttosto graffianti, anche in alcuni momenti, che si intersecano in questa forma d'onda unitaria, seppur molto poliedrica e molto ricca anche di sfumature e di venature. Nello stesso, diciamo, mood musicale, sonoro, compositivo, l'aspetto anche chiaramente legato al suono, l'impatto frequenziale, l'impatto delle frequenze è stato sempre molto ben studiato da Tony Corrad. Rimaniamo, diciamo, nella materia, oltretutto anche concreta, legata allo strumento cardine della sua esperienza musicale, cioè il violino, ascoltando l'opera successiva, che è Early Minimalism del 1965, un anno dopo di questa composizione del 1964, la prima parte, che poi praticamente fu messa in circolazione, pubblicata a livello proprio di produzione musicale successivamente, in realtà molto dopo, nel 1900 addirittura 97 sono state pubblicate queste prime opere di Tony Corrad, in Il Minimalist Volume 1. In realtà appunto questa composizione che ascolteremo adesso è dell'aprile 1965. Poi scopriremo tra il 1966 fino ai primi anni 70 un po' le esperienze anche che fece Tony Corrad, non solo nell'ambito delle sperimentazioni musicali, con collaborazioni anche con artisti piuttosto famosi e importanti, ma anche come filmmaker e come regista visivo. Intanto ascoltiamoci anche un'altra parte, un altro settore, un altro elemento dell'esperienza musicale, soprattutto dei primi anni di Tony Corrad, con Il Minimalism Part 1. Buon ascolto. E siamo rientrati di nuovo in diretta. Ovviamente il problema che abbiamo riscontrato già in precedenza con Four Violins si riproduce anche ora, perché anche quest'opera è piuttosto lunga. Dunque abbiamo ascoltato un frammento per continuare a raccontare a livello sonoro il percorso storico di questo grande compositore scomparso circa un mese fa, Tony Conrad. E andiamo a scoprire, in realtà dal 1965 qualcosa succede anche nella sua vita di artista, in termini di esperienza anche personale, di percorso, nel senso che Tony Conrad dal 1966 inizia a girare le sue prime pellicole sperimentali come regista e come filmmaker, e nel 1966 appunto girò i primi lavori filmici, The Flicker e The Eye of Count Finkelstein, basati entrambi su sequenze di luci abbaglianti. Inizierà da qui insomma una prolifica esperienza come regista sperimentale che è proseguita negli anni da parte di Tony Conrad. Successivamente usciranno altri film, altri filmati sperimentali dal 1970 fino alla fine degli anni 70, insomma in tutto il decennio degli anni 70. Ma dal 1965-66 succede anche qualcosa, perché i Dream Syndicate, il progetto a cui faceva parte lo stesso Conrad, si scioglie, e dal 1966 insieme a John Keel, Lou Reed e Walter De Maria costituì una formazione che durò molto poco, ma molto interessante e importante nella scena comunque anche della sperimentazione, cioè i Primitives. E successivamente da questa esperienza diciamo in negativo, lo stesso Tony Conrad, oltre a continuare a cimentarsi, a sperimentare in termini di filmmaker e di riprese video, iniziò anche a elaborare delle colonne sonore sempre per altri registi e per altri film sperimentali della fine degli anni 60. In particolare andremo proprio ad ascoltare ora una parte della colonna sonora di un film sperimentale del 1969, Joan of Arc, e ascolteremo appunto un frammento di questa colonna sonora. Poi entreremo praticamente negli anni 70 con due chicche. Prima di tutto una collaborazione, un lavoro importantissimo insieme alla storica formazione del krautrock anni 70 dei Faust, e poi successivamente anche una sperimentazione inedita che poi è stata ritrovata, ripubblicata molti anni dopo, che è stata insomma non ha una data definita, perché non si sa esattamente la data di creazione, ma tra la fine degli anni 60 e inizio degli anni 70, con il grande sperimentatore che ha già attraversato 451 frammenti sonori, cioè Angus MacAlice. Intanto godiamoci anche un altro elemento, un altro tassello della produzione musicale e delle sperimentazioni di Tony Conrad, dalla colonna sonora di Joan of Arc. Buon ascolto.